Il Medioevo. Che senso ha parlare ancora oggi di Medioevo? Un'epoca veramente lontana, lontanissima, lontana anche dalla nostra sensibilità, tanto ad evocare molto spesso l'idea dei fantasmi, di qualcosa di brutto, di orribile, qualcosa che consideriamo effettivamente come il contraltare della civiltà alla quale di fatto siamo abituati. Naturalmente potremmo parlare di barbarie, roghi, torture e che dir si voglia, ma naturalmente non è così. Non è così non solo perché lo possiamo dire facilmente con gli strumenti della storia, ma anche perché abbiamo degli strumenti e degli specialisti e delle specialiste che ci permettono di fare questo tipo di ragionamento. L'occasione per ritirar fuori una tematica e capire quanto possa essere pregnante anche al giorno d'oggi fare una riflessione su questo tipo di discorso e su questo settore molto importante per la nostra storia arriva dalla data del 7 aprile, quando alle ore 18:30 si terrà presso l'archivio storico dei movimenti Via Vesella la presentazione di Branca Branca Branca, Ritorno al Medioevo, numero 56 di Zapruder, rivista di storia della conflittualità sociale, che è stato curato questo numero da Fabrizio De Falco e Laura Righi, che sono con noi per parlarci dell'iniziativa e per presentare questo numero. Partiamo da una domanda forse banale, soprattutto per voi che siete medievisti di professione, ma che forse può essere utile per quanti ci ascoltano. Il Medioevo, dicevamo, è uno dei periodi storici che evoca questa immagine negativa, ma che allo stesso tempo è uno dei settori della storia che vengono maggiormente frequentati da parte del grande pubblico. Nei testi di presentazione del numero che trovate nell'articolo sul nostro sito www.radiocittafugico.it, voi ci raccontate come anche fra le persone comuni quella del Medioevo sia una tematica interessante. Però spesso viene associata a questa immagine di oscurantismo o alle volte, diciamo, viene anche utilizzata come fondamento dell'identità nazionale. Questa è spesso una lettura che viene fatta da destra, letture che in parte sono sbagliate. Ma chiediamo a voi, Laura Righi e Fabrizio De Falco, quali sono i motivi per parlare ancora di Medioevo e perché è importante ingaggiare una battaglia culturale e politica, diciamo, su questa parte della nostra storia. Bene, e il motivo è più o meno esattamente quello che ti ho detto nella tua bella presentazione. C'è un'immagine di Medioevo comune, il modo in cui viene pensato, che è anche un modo in cui poi noi pensiamo a quelle che sono le radici della nostra società. E adeguandoci a questa immagine stereotipica, stereotipizzata, del Medioevo, noi le diamo un fondamento. Questo vuol dire anche accettare effettivamente in maniera passiva che alle radici della nostra civiltà ci siano fondamentalmente bigottismo, barbarie e assumendo e dando forza a un mito delle origini, che tuttavia le ricerche di storia medievistica tendono a smontare, se quando non l'hanno già fatto. Proprio il fatto poi che negli ultimi anni il Medioevo come tema anche pop sia cresciuto esponenzialmente di importanza, aiuta solo fino a un certo punto, perché anche le visioni positive o interessanti continuano a ricalcare gli stessi stereotipi di barbarie, oscurantismo, roghi. Ecco, non si vuole negare quelle che sono alcune verità storiche. Medioevo si ammazzavano, ma ci ammazziamo anche noi, non sono verità medievali. Il problema è riappropriarsi della nostra storia e fargli delle domande che possono interessarci, cercando di rendere il Medioevo meno esotico e più parte di noi. All'interno del numero, in cui sono presenti naturalmente vari contributi e ci sono tante linee di approfondimento, una delle tematiche, una delle possibili letture è per l'appunto quella politica. Però la dimensione politica, diciamo, non è una novità, non è un qualcosa che è presente solo al giorno d'oggi con il recupero di tradizioni, diciamo anche il Medioevo immaginato, l'invenzione della tradizione, tante tematiche di questo tipo, però è qualcosa che è connaturato a questo discorso. Bene, è possibile o è necessario uscire dal paradigma della neutralità, diciamo, o si può provare a decostruire anche una lettura politica all'interno della storia medievale? Quello che noi abbiamo cercato di fare con questo numero è, decostruire, appunto mostrare intanto come quando è stato creato il partire da quando è stato creato il Medioevo, come è stato creato il Medioevo e perché il Medioevo è stato inventato, è un periodo insomma che è stato definito come l'età di mezzo. E per definizione l'età di mezzo in cui si poteva mettere tutto quello che non piaceva della società contemporanea, quindi nel corso dell'Illuminismo, poi nel corso dell'Ottocento con una lettura molto nazionalista, anche del, appunto ideologicamente orientata, il attribuire al Medioevo un po' appunto quello che non ci piaceva della nostra società e un po' quello che cioè, creare appunto un mito delle origini, ed è la stessa cosa che facciamo ancora oggi. E noi ci soffermiamo ad esempio anche nell'editoriale sull'espressione ritorno al Medioevo, che viene spesso utilizzata anche in contrapposizione alle destre, molto spesso continua a riproporre questa idea per cui tutto quello che non ci piace sta nel Medioevo, che era un'epoca brutta e oscura. Il Medioevo nel corso del tempo, c'è anche un articolo di Giacomo Vignodelli che ne parla nel numero, è stato utilizzato appunto anche durante ad esempio i nazionalismi, durante il nazismo, da Hitler come mito fondativo delle origini per diciamo dare una consistenza storica a delle nazioni che questa consistenza storica e queste origini medievali non avevano. E quello che appunto noi cerchiamo di fare è vediamo effettivamente cosa c'era in questo Medioevo, senza dover per forza proporre un'immagine romantica del Medioevo o necessariamente bella, ma vediamo effettivamente che cosa c'era e non attribuiamogli quello che non ci piace della nostra società.